Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora parleremo, c'è anche un po' un cotè, una ricaduta di alcune dichiarazioni che si sono susseguite sabato, venerdì, ma soprattutto sabato nel workshop Ambrosetti di Cernobbio. Mi riferisco a quello del ministro all'economia, ma mi riferisco anche della situazione greca. A questo punto tutti i giornali hanno titolato, come avrete visto immagino, c'è maggiore apertura da parte della Grecia, di Varoufakis e quant'altro. Oggi la Grecia ha rimborsato la tranche in scadenza di un prestito, di un pezzo del prestito del Fondo Monetario Internazionale, valeva 584 milioni di euro. La prossima è dovuta venerdì, sono altri 346 milioni. Il viceministro greco ha continuato ad attaccare in questo caso la Banca Centrale Europea e ha detto è colpa, la crisi di liquidità è colpa della Banca Centrale Europea. E poi anche lì il ministro dell'economia italiano Padoan aveva detto, lo ascolteremo più avanti, attenzione a non peccare di eccesso di ottimismo, occorre fare le riforme. Questo in generale è anche riferito all'Italia. Un certo ottimismo lo ha registrato anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, sempre intervenuto al workshop Ambrosetti. Un nuovo ottimismo nell'aria. Attenzione, anche noi invitiamo sempre alla prudenza, è vero che c'è ed è vero che lo si legge soprattutto sui mercati. Detto questo, oggi ci sono due dati che la dicono lunga. Da un lato i prestiti bancari che diventano sofferenze, cioè che diventano non più esigibili. Secondo l'ultimo rapporto ABI, a gennaio le sofferenze lorde delle banche italiane sono salite a quasi 185 miliardi, è il livello più alto da 19 anni, e sono soprattutto anche le lungaggini per il recupero dei crediti a pesare. Si va da in media a 7 anni, con punte di 20 anni per recuperare un credito bancario a Messina. Dall'altro gli impieghi sono ancora in calo, cioè i soldi che le banche prestano continuano ad avere il segno meno davanti come percentuale, meno 1,4%, però nel mese di febbraio è dell'1,4%, i mutui per l'acquisto di case hanno registrato un boom, più 35%. I prestiti bancari vengono raggruppati sempre in due categorie, quelli alle imprese, che continuano a essere in calo significativo, e quelli alle famiglie, alle persone private, che invece sono maggiormente sono messi un po' meglio e soprattutto hanno avuto un boom negli ultimi tre mesi. Di questo parleremo, apriremo anche sulla dichiarazione del presidente dell'INPS Tito Boeri, che sarà nostro ospite nelle prossime puntate, perché Boeri ha fatto notare che tra l'1 febbraio e il 20 febbraio, cioè in 20 giorni, sono arrivate 76.000 richieste di imprese, cioè 76.000 imprese che hanno fatto richiesta per la decontribuzione per l'assunzione a tempo indeterminato. Ora, non sappiamo se ogni impresa abbia chiesto una o due o tre o quattro, per cui il numero complessivo non si sa. Boeri ha chiarito che a marzo darà il primo dato aggregato. Che cos'è la richiesta di decontribuzione? Ricorderete che non tanto nel Jobs Act, ma come manovra del governo, solo per quest'anno le imprese che assumono a tempo indeterminato non pagano buona parte dei contributi fino a un massimo di 8.000 euro a dipendente per tre anni. E allora già si diceva, attenzione, che molte imprese potranno avere la convenienza nel regolarizzare chi già lavora per loro. Ecco perché è difficile parlare di nuovi occupati in senso stretto, perché magari le richieste avanzate da 76.000 imprese in molti casi, o in alcuni casi, riguardano persone che già lavoravano lì, magari come Coco Pro, magari come partita IVA, o con semplicemente un tempo determinato, che le imprese, visto il vantaggio che ne hanno, 8.000 euro dipendente, fino a 8.000 euro dipendente, non è poca cosa, decidono, e il Sole 24 Ore, se ricorderete, fece proprio un calcolo, un raffronto, mostrando come sia nel caso di un tempo determinato che soprattutto nel caso di un Coco Pro, fino a 60.000 euro, il grosso del vantaggio si aveva intorno ai 40, dai 25, 40.000 euro lordi l'anno, ma fino ai 60.000 euro lordi l'anno c'era un costo nettamente inferiore nell'assumere una persona a tempo indeterminato, arrivava al 20-30% in meno. Ecco che probabilmente molti hanno regolarizzato a tempo indeterminato collaborazioni che già avevano. Poi ci sarà chi, immaginiamo, perché il dato non è scorporabile, ha assunto tout court, ha preso nuove figure professionali. In ogni caso è una buona notizia, perché anche un Coco Pro che diventa a tempo indeterminato per tre anni, nel senso, il tempo è indeterminato per sempre, ma dico, perché c'è un vantaggio per i primi tre anni, è una buona notizia. Non sappiamo appunto cosa voglia dire complessivamente, e Boerio questo lo ha ricordato, è rimbalzata su tutti i siti la notizia. In effetti devo dire che, dopo aver precisato che non sono nuovi assunti, anche perché abbiamo un numero di imprese, non sappiamo quanti già lavorassero, 76.000 domande in 20 giorni è un dato impressionante. Sentiamo Boeri su questo. I primi dati che abbiamo sono incoraggianti in quanto al numero di imprese che hanno fatto richiesta. Nei primi 20 giorni si parla di circa 76.000 imprese che hanno fatto richiesta, quindi potrebbero essere anche molte di più le assunzioni. Questo è il numero di imprese che ha fatto richiesta. Però ripeto, su questo noi daremo alla fine del mese un'informazione accurata, anche con delle comparazioni sui dati di assunzioni e di imprese che hanno fatto assunzioni negli anni precedenti, in modo tale da darvi un'informazione il più possibile completa, perché altrimenti questi numeri sono di per sé poco significativi a mio giudizio. Mi scrive un ascoltatore in questi secondi: abbiamo assunto 5 dipendenti a tempo indeterminato e quindi in una settimana tutte le collaborazioni, cioè erano 5 collaboratori presi in una settimana a tempo indeterminato. Ripeto, lo avete appena ascoltato, ha ragione Boeri a dire aspettiamo a vedere il dato definitivo, i dati soprattutto scorporati. Comunque vada, è una buona notizia, perché anche passare da un Coco Pro a un tempo indeterminato ti cambia la vita, ti cambia la vita e ti cambia anche i rapporti con la banca e quant'altro. È inutile dire sì, ma dopo tre anni le imprese li licenzieranno. Bah, dipende, può essere che alcuni lo facciano. Il Jobs Act prevede in quel caso 2 mesi ogni anno lavorato, per cui bisogna vedere se uno veramente ha una convenienza dopo 3 anni a dare 6 mesi di stipendio per mandare via una persona, cioè, o non serve più quella mansione, e vabbè, o la persona lavorava male, ti sei sbagliato nell'assumerla e allora devi prendere un'altra. Con un costo più alto, però, perché devi dare 6 mesi a quello che mandi via e ne assumi uno a quel punto non più senza aver neanche avuto i benefici, diciamo, che avevi avuto nei primi 3 anni con l'altro. Se no, io dubito che un'impresa licenzi per licenziare e basta da questo punto di vista, sapendo che c'è anche una penale, tra virgolette, un risarcimento da dare. Boh, mi farei i calcoli molto bene. Allora, la borsa, volete sapere, le borse sono tutte positive, sono identiche praticamente, tranne Francoforte che è più forte delle altre, più 2,30%, perché guadagna l'1% Parigi, l'1% gli Stati Uniti, l'1% lo guadagna Londra e l'1% lo guadagna anche Milano. In questo momento bene Xor, la controllante di Fiat, più 4,70%, ST Microelectronics più 4,5%, Ferragamo più 4, Moncler più 4 anch'essa, Autogrill più 3,70, Intesa più 3,1 come Atlantia, Pop Milano più 2,80 come Azimut, il 2% lo guadagna Telecom Italia. Fronte opposto, Saipem meno 4,40, Jux meno 2,60, Eni meno 2, Monte dei Paschi meno 1,20 come Pirelli, Tenaris meno 0,50. Francoforte oggi ha fatto notizia non solo perché cresce più delle altre, ma perché l'indice DAX ha toccato per la prima volta nella sua storia, quindi anche prima della crisi, quota 12.000 punti, a 12.214, che è il livello sostanzialmente a cui lo troviamo adesso, cioè ampiamente sopra i 12.000 punti. Nel frattempo l'euro resta a quota 1,0580, quindi vicino ai minimi, e con lo yen a quota 128, addirittura 128,36. Intanto abbiamo anche il primo dato su quanti titoli dei vari paesi, titoli di Stato dei vari paesi, abbia acquistato la Banca Centrale Europea la settimana scorsa, nella prima settimana del quantitative easing: 9 miliardi e 750 milioni di euro. Questi sono gli acquisti della Banca Centrale Europea, e proprio al bilancio della prima settimana sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Borse europee ancora positive sull'effetto della Banca Centrale Europea e probabilmente sulla convinzione che la crisi greca è destinata a trovare un esito positivo, non traumatico. Due sono i dati che oggi colpiscono: l'indice della Borsa di Milano, che ritorna ai livelli di 4 anni fa, e quello della Borsa di Francoforte, che ha fatto segnare oggi il suo record storico. A confermare che il piano di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea sta funzionando, ci sono anche uno spread nuovamente in calo e un euro sempre molto debole rispetto al dollaro. In effetti l'attenzione degli operatori è in queste ore rivolta proprio al rapporto euro-dollaro. L'indebolimento dell'euro favorisce, lo abbiamo detto più volte, l'export dei paesi europei. In più la nuova caduta del prezzo del petrolio sta in qualche modo neutralizzando gli effetti negativi che un dollaro forte avrebbe invece avuto sull'import di energia. Secondo alcuni però la discesa dell'euro è stata un po' troppo veloce, il che fa intravedere anche possibili scenari negativi. Quel che si teme è che questa situazione possa determinare un deflusso massiccio di liquidità verso le attività in dollari, e ciò sia per i temori di ulteriori deprezzamenti dell'euro, sia perché al previsto ulteriore aumento dei tassi americani si contrappongono in Europa tassi molto vicini allo zero, con poche opportunità di guadagno per gli investitori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Commento di Salvatore Padula. Vedo molti messaggi sull'anticipazione di Boeri, e quindi quante imprese hanno chiesto la decontribuzione nei primi 20 giorni della finestra, 76.000. Allora, vedo, qualcuno mi scrive, ma in 3 anni poi quanto risparmiano? Ho detto fino a un massimo di 8.000 euro dipendente, quindi a casa mia fa 24.000 euro, anche se a quel punto gli converrebbe pagare i 6 mesi di buonuscita, diciamo così, e interrompere il lavoro. Ma dipende, cioè, allora, io non penso che nessuno prenda a tempo indeterminato uno che non gli serviva. Probabilmente ha bisogno di una funzione nuova, o meglio, c'era in altri casi una persona che lavorava con un contratto CocoPro a tempo determinato di altro genere, e lo trasforma a tempo indeterminato perché la funzione gli serviva. Ok? Allora, cosa fai dopo 3 anni? Lo licenzi, gli dai 6 mesi, quindi comunque vai a erodere un po' del beneficio che hai avuto per tenetelo sotto forma di CocoPro? Vabbè, non lo so, è un bel costo, perché non è che sparisce la funzione. Oppure dopo 3 anni ti rendi conto che quella funzione non serve, ma quello è un ragionamento di carattere diverso, di carattere aziendale. C'è sempre un atteggiamento che non condivido in chi parla del sistema precedente al Jobs Act. Non è che il Jobs Act a me facesse impazzire su tutto, però non dimentichiamoci da dove venivamo. Cioè, sembra sempre che prima il mondo fosse perfetto, tutti i contratti a tempo indeterminato, tutte tutele, tutti articolo 18, e adesso si è distrutta la sicurezza. No, il mondo precedente, per chi non era assunto a tempo indeterminato e chi già lo era non ha modifiche, era una giungla, altro che articolo 18, una giungla fatta di tipologie diversissime di contratto, in cui quasi nessuno ti assumeva a tempo indeterminato e con tutto quello che ne conseguiva. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, ma ricordiamoci anche la fotografia. È inutile raccontare un mondo che non c'è mai stato, perché basta avere o conoscere qualcuno sotto i 30 anni e delle volte anche sotto i 40 per sapere com'era la giungla di prima. Se qualcuno viene stabilizzato a tempo indeterminato per 3 anni, non dico per 3 anni perché il datore di lavoro ha un vantaggio nei primi 3 anni, ma ben venga, poi sarà il datore di lavoro a farsi 2 calcoli: quanto gli costa la buona uscita, quanto gli costa riprenderlo, magari come, se vuole fare questa cosa qui, perché non è che proprio sia facilissimo rifarlo come partita IVA o come CocoPro, o prendere un altro come CocoPro, come partita IVA. Alcuni imprenditori mi scrivono: attenzione, c'è anche il costo del reinserimento e della formazione, perché non è che sul mercato tac, levi uno, prendi un'altra persona così, tutti uguali. C'è un'idea veramente, a mio avviso, viziata da una resistenza di fondo. Comunque, ancora arriveremo su quello. Adesso, visto che c'è qualcuno che si lamenta di questo, non oso pensare cosa capiterà sul prossimo tema, perché è uscito il rapporto di ODM Consulting su come sono andati i salari l'anno scorso per chi ce l'ha un salario, e sono aumentati a partire, ve lo dico perché così iniziate già a inondare gli sms, a partire da chi ha una mansione da operaio o impiegato. Prima di tutto due cose ancora, però. Il ministro Madia oggi in un'intervista dice: lo Stato licenzierà i dirigenti inadeguati, niente Jobs Act per gli statali, i manager saranno autonomi dalla politica. Col massimo rispetto per il ministro Mariana Madia, finché non lo vedo non ci credo, nel senso che i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, quelli di carattere apicale soprattutto, che sono i più pagati dei paesi europei e anche i più duraturi, quando ne vedrò alcuni cacciati, capi di gabinetto, non ce l'ho con qualcuno, capi di dipartimento, per incapacità, non per sport ovviamente, le crederò. E poi resta il tema del Jobs Act nel pubblico impiego. Dice: nel pubblico impiego resterà il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato. Secondo me è il primo vizio, il primo errore del governo Renzi in tema di Jobs Act. Cioè, se tu credi a una regola, credi che l'articolo 18 così come era formulato fosse diventato mai antistorico, lo devi applicare anche al pubblico impiego. Non si capisce perché nel pubblico impiego nel caso di licenziamento ingiustificato c'è il reintegro, mentre nel privato, nel caso di licenziamento ingiustificato ma non discriminatorio, perché lì c'è ancora il reintegro, basta la compensazione economica. Se credi in quello che hai fatto, perché flessibilizza il mercato del lavoro, permette di assumere senza l'incubo di non poter licenziare, applicalo anche al pubblico impiego. Se no, viene da pensare che il governo l'ha fatto solo per non perdere i voti di consenso del pubblico impiego. Poi c'è un ascoltatore che mi dice: lei non parla di incalza, abbia pazienza, non parlo, cioè, parliamo di incalza, ma sopra dell'inchiesta parliamo adesso, nel senso che poi siamo agli albori, vedo già molte reazioni politiche. Allora, appalti per 25 milioni di euro affidati a società legate all'imprenditore Stefano Perotti, e modifiche alla direzione dei lavori che permettevano di far lievitare i costi anche del 40%. Inoltre, incarichi di lavoro procurati a Luca Lupi, figlio del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Questo è emerso dalle indagini che hanno portato all'arresto dello stesso Perotti, oltre al manager dei lavori pubblici Ettore Incalza e 2 collaboratori per la gestione illecita dei grandi appalti. Perotti affidava, questo emerge dall'inchiesta, consulenza retribuita a Incalza in cambio della progettazione e direzione dei lavori di grandi opere. Avrebbe anche influito in modo illecito sull'aggiudicazione dei lavori del Palazzo Italia Expo. Lupi ha chiarito: mai chiesto favori per mio figlio, e dai primi di marzo lavora a New York, e fa bene Lupi a chiarire. mi aggancio a quanto abbiamo appena detto al ministro Madia, Marianna Madia, sulla pubblica amministrazione. Vedi, il caso di Incalza è emblematico. Se non ricordo male, 7 legislature è stato in quel ruolo, ok, come direttore dei lavori pubblici. Ora, visto che il tema dei lavori pubblici è il campo dove maggiormente si condensano da sempre le tangenti, la corruzione in questo paese, perché c'è la ciccia, no? Allora, un po' come capitava, non so se capiti ancora, per il maresciallo della stazione dei Carabinieri, che ogni 3 anni, mi sembra, adesso vado a memoria, veniva fatto ruotare. Un manager, anche se bravo, quello che volete, ma è troppo rischioso. Non può fare 7 legislature un capo di Dipartimento dei Lavori Pubblici, perché è inevitabile, no, ma insomma la tentazione è fortissima, la possibilità di corrompere aumenta. Fateli ruotare i capi dipartimento, il dirigente della pubblica amministrazione, ne parleremo a lungo. Non è accettabile che uno in un compito così delicato, perché gestisci gli appalti in un paese che ha il tasso di corruzione più alta d'Europa e non solo, beh, forse è situata la Grecia, uno si faccia 7 legislature, perché il rischio diventa amplificato per 7. Allora, trovate una regola anche lì, non solo gli stipendi dei manager, e va buo, ma soprattutto alla rotazione di questi. L'altro era Decio Canzio, il ragioniere del Regionale dello Stato, non mi ricordo quanti anni fece, 18 anni alla ragioneria. Oh, ma se ti sfuggono delle cose, dopo qualche anno cambia, fai come nel privato, cambia, va bene i risultati, ammesso che vi fossero, ma cambia. Allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema, gli stipendi del settore privato degli italiani. Allora, dottoressa Simonetta Cavasin, amministratore delegato di ODM Consulting, che è la società leader in Italia specializzata nella gestione delle risorse umane e anche che compie ogni 3 mesi, se non ricordo male, un monitoraggio dell'andamento delle retribuzioni degli italiani. Buonasera. Buonasera a tutti. Mi dà intanto un commento sul Jobs Act, anche se so che non è il vostro campo di pertinenza. Se lei ritiene che i dati diffusi oggi da Boeri siano insomma 79.000 imprese che magari regolarizzano posizioni già avute, sì. Non è detto che siano neoassunti, ma insomma la cifra delle imprese che hanno già fatto domanda, 74.000, è impressionante. Sì, è vero, è impressionante, riflette comunque un trend che il Job Act sta accolto e sta cogliendo, quindi ho sentito prima il suo commento sul fatto che le aziende non è che si siano improvvisamente svegliate, si siano rese conto di aver bisogno persone con contratti a tempo indeterminato, tutte le crescenti, che c'è in corso un percorso di stabilizzazione rispetto appunto a forme contrattuali meno stabili, e nello stesso tempo c'è anche una esigenza di pianificazione, di crescita che le aziende stanno avendo, che nel Job Act trova una risposta, almeno da un punto di vista proprio di riprendere a stabilizzare persone che ricoprono ruoli che già lavoravano per te. In parte probabilmente sì, e in sì. Parte invece è rispetto appunto a un'operazione di quella che noi definiamo workforce management, e quindi di rinforzo delle strutture delle aziende. Allora, sì, vedo che alcuni dicono non si è esteso al pubblico impiego perché ci sarebbe la rivoluzione dei sindacati di pubblico impiego. Non me ne frega nulla, se credi nei principi del Jobs Act, li applichi anche al pubblico impiego, a partire dal reintegro, o meglio dal risarcimento economico al posto del reintegro, se no non applicarli neanche al privato. Questo secondo me è il difetto più grosso del Jobs Act voluto dal governo. Secondo aspetto, per quello che riguarda i messaggi che arrivano, attenzione, ma non è che se uno Allora, poniamo che io sia un Coco Pro o una partita IVA, almeno per i prossimi 3 anni, se partiamo dal presupposto che l'imprenditore l'abbia fatto solo per i contributi, almeno per i prossimi 3 anni sono a tempo indeterminato, poi vedremo cosa succederà, ma non è che partissi da una situazione migliore. Quello che io contesto a certi messaggi, partivo da una situazione di precariato totale. Quanti sono gli uffici da commercialista, da gli studi d'architetto e quant'altro che tengono le partite IVA e invece di assumerle o di dargli un vero contratto li usano come se fossero dei consulenti, ma poi sono sempre lì 8-9 ore al giorno. Allora, almeno hai fatto più chiarezza. Poi, se fra 3 anni tu vorrai, perché non hai più i benefici dei contributi, licenziarlo, ti farai i tuoi calcoli, ti farai la pratica, vediamo, questo se ne va veramente, poi vuol dire che non hai più bisogno. Cioè, non è tutto così sadico e automatico come la fanno alcuni ascoltatori, che poi vorrei sapere se hanno il contratto a tempo indeterminato di vecchio stampo. Dopo il meteo invece, dottoressa, vorrei capire come fate a dire che la retribuzione lorda nel 2014 è cresciuta di più per gli operai, perché so già che mi arriveranno critiche da ogni fronte. Allora, dottoressa Cavasin, nel vostro 19° rapporto sulle retribuzioni, 19 anni che lo fate, avete fotografato come ogni anno il livello degli stipendi nel settore privato nel 2014. Allora, intanto due cose che mi creeranno qualche problema con gli ascoltatori. Voi dite che le retribuzioni l'anno scorso sono cresciute a un ritmo che è il più elevato degli ultimi 5 anni per tutte le categorie, quindi operai, impiegati, quadri, dirigenti, e che la retribuzione a essere cresciuta di più è quella degli operai. Me le spieghi bene prima che io debba passare il resto della trasmissione a difendermi dagli insulti. Prego. Va bene. Allora, innanzitutto qualche numero. Noi sì. Lavoriamo periodicamente circa 400.000 profili retributivi, tra cui quasi la metà del nostro database è formata da ruoli inquadrati come impiegati e operai. Secondo aspetto, diamo dei valori assoluti perché così ci rendiamo sì. conto di che cosa stiamo effettivamente parlando al di là degli incrementi percentuali. Nel 2013 avevamo una retribuzione totale annua lorda, quindi fisso più il variabile, di 23.500 euro circa. Per gli operai. Per gli operai, stiamo parlando degli operai. Nel 2014 la retribuzione è di 24.860 euro. Quindi questo è l'ordine di grandezza di cui stiamo parlando, con un percorso che porta a una progressiva crescita dal 2010. Intanto, per darle un'idea, nel 2010 parlavamo di 21.500 euro, quindi siamo passati dal 21.500 euro. Ecco, la cosa interessante è che gli operai, dalla vostra rilevazione che viene fatta ogni anno, oltre che trimestralmente, che ha 400.000 casi, gli operai sono quelli che hanno avuto il maggior incremento come retribuzione dal 2010 al 2014, più 15,5%. Sì, questo è legato anche a un profilo di, tra virgolette, specializzazione man mano del ruolo, e quindi ovviamente legato all'anzianità aziendale, all'anagrafica e al tema proprio della specializzazione, che man mano è cresciuta, che è uno dei temi che in questi anni ha caratterizzando e sta caratterizzando questa categoria professionale, perché poi all'interno della categoria contrattuale operai noi ritroviamo delle professionalità e delle specializzazioni di assoluto rilievo, tanto che questo ha aperto ad esempio un confronto molto forte in questi ultimi 2 anni anche col tema del mercato tedesco, proprio perché lì ci paragoniamo con il concetto di specializzazione massima. Cioè, quindi al di là dell'impressione che può fare questo, perché dice gli operai sono quelli che hanno avuto il maggiore incremento, attenzione, intanto si parla di incrementi su cifre purtroppo già basse, 23.000 euro lordi, 23.500 euro lordi che diventano 24.800 euro. Comunque l'incremento voi l'avete fotografato, devo dire, ogni anno, perché si va dai 21.500 euro lordi del 2010 ai 22.000 del 2011, 22.600 nel 2012, 23.400 nel 2013, 24.800 quest'anno. Per cui non è un dato così che può sembrare frutto di qualche distorsione. È una costante negli ultimi 4 anni, tant'è che è cresciuto del 15%. Terzo aspetto, lei dice, attenzione, che quando si parla di operai si sta parlando spesso e volentieri di operai specializzati. Qui torniamo anche al tema del Jobs Act. Magari alcuni che hanno mansioni basse non vengono nemmeno inquadrati come operai, sono a collaborazione, a contratto, quant'altro. E quindi gli operai specializzati, ne parlavamo la settimana scorsa di quanto ci mettono l'imprenditore a trovare un tornitore, un fresatore, hanno una grossa specializzazione e sono importanti per le aziende che vanno bene. Quindi non si deve pensare all'operaio solo come quello senza qualifiche che sta nella parte bassa, tutt'altro. Le altre categorie come si sono mosse? Allora, sono cresciute dirigenti, quadri e impiegati. Abbiamo appunto gli impiegati, il trend rispetto al 2013 è stato del 4,8%, però anche qui, per dare un'idea dei numeri in assoluto, passiamo da 28.500 euro del 2013 a quasi 29.900 euro del 2014. Per i quadri diciamo hanno avuto l'incremento da questo punto di vista in percentuale meno rilevante, sì, anche se passiamo da 54.150 euro del 2013 a 55.400 euro di quest'anno, del 2014, e per i dirigenti 2013 110.000 euro 800 e per il 2014 115.000 euro e quasi anche di 800. Allora resti con noi perché ho il traffico. Ripeto, queste sono le medie, no? Le medie dei 400.000 casi osservati. Un dirigente, vado dall'alto, 115.000 euro e 800 di media, con un aumento del 4,5% rispetto all'anno scorso di media. Un quadro, 55.400 euro, il 2,3% in più, sempre come media. L'impiegato 29.900 euro, quasi 30.000 euro, più 4,8%, e appunto l'operaio, la mansione di operaio, 24.860. Dopo il traffico vorrei capire ancora due cose, dottoressa. La prima, come cambia in base all'area geografica. La seconda è come cambia in base al tipo di impresa, nel senso che noi vediamo che pur con tutte le difficoltà ci sono migliaia di imprese che, essendoci legate ai mercati esteri, vanno bene, è inutile girarci attorno, vanno male quelle che sono legate ai consumi interni. Allora, nel frattempo, mentre c'era il traffico, è uscita una notizia che va sulla linea di quanto diceva prima, abbiamo sentito il presidente dell'INPS Tito Boeri. Nei primi 2 mesi il dato lo fornisce la Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Le persone assunte a tempo indeterminato utilizzando gli sgravi contributivi previsti dalla legge, i primi 3 anni non si pagano i contributi, sono stati 200. Attenzione, gli sgravi contributivi non c'entrano nulla col Jobs Act, lo dico, forse ho fatto confusione anch'io, è la legge di stabilità che le prevedeva, valgono solo per il 2015. Comunque 275.000. Nell'80% dei casi si è trattato di una stabilizzazione di un rapporto di lavoro precario, come dicevamo, che comunque è sempre meglio avere un lavoro a tempo indeterminato per i prossimi anni, almeno 3 se uno pensa che non l'abbia fatto per i contributi, che non continuare col lavoro precario. Almeno su questo possiamo essere d'accordo con gli ascoltatori? Chiedo. Anche perché il lavoro precario, poi restavi a casa a 0 euro. Invece con il tempo indeterminato, ripeto, se lo mandi a casa e devi almeno dargli, se sono 3 anni, 6 mesi di retribuzione. Non sarà tantissimo, ma è meglio che niente, è meglio della situazione attuale. Fermo restando che poi uno con quel contratto va in banca e dice: scusami, io ho un lavoro a tempo indeterminato, fammi un mutuo, perché non è che c'è scritto a tempo indeterminato ma scade come uno yogurt, è a tempo indeterminato e basta. Per cui tutto il resto poi vedremo se fra 3 anni vi sarà un'ondata di rapporti di lavoro che si interrompono, e vedremo come sarà, con che tipologia avrà, come sarà questo paese. Intanto quello che è certo è che 275.000, secondo la Fondazione Consulenti del Lavoro, sono stati l'80% di questi 275.000 è stato regolarizzato. Dottoressa, la distribuzione geografica e la tipologia dell'impresa in 2 minuti. Sì. Allora, per la distribuzione geografica guida anche col 19° rapporto il nord-ovest. che presenta i valori retributivi più alti. Per i dirigenti 116.000 euro contro i 115 del nord-est e i 106 del sud e delle isole. A seguire appunto segue il nord-est e poi centro-sud e isole. Vabbè, fin qui c'è, prego. Sì, anche se appunto quest'anno e con l'ultimo rapporto abbiamo effettivamente verificato che in termini di variazioni percentuali c'è stato un incremento particolarmente significativo per il centro e anche qualche segnale di crescita nel mercato retributivo del sud. Speriamo. Quindi un po' a macchia di leopardo, però non possiamo dire che è un trend per il momento, però è un segnale che noi terremo ovviamente monitorato. E la tipologia d'azienda? Allora, la dimensione aziendale guida sempre la grande impresa, seguita dalla media, tra virgolette, un relativo fanalino di coda della piccola. Per darvi un'idea, lo scarto retributivo fra grandi e piccole aziende è compreso tra il 18 e il 14% per i dirigenti e gli impiegati e operai e il 7% per i quadri. Però quello che stiamo vedendo, più che sui numeri, dal lavoro che stiamo facendo insieme alle imprese, è che da parte soprattutto della media impresa, per il richiamo che faceva lei all'internazionalizzazione, c'è un tema di profondo interesse e lavoro su appunto la comprensione dei mercati esteri, essere competitivi rispetto anche agli aspetti retributivi e soprattutto la ricerca di competenze e professionalità che permettano di fare la differenza. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Dovevamo concludere solo come dato, attenzione, le retribuzioni degli italiani intesi come impiegati, operai, quadri e dirigenti, di cui ci ha appena raccontato l'amministratore delegato di ODM Consulting, sono lorde. Molti scrivono, attenzione, da questo punto di vista bisogna capire poi cosa resta nel netto, perché ci può essere stato un aumento della tassazione e quant'altro. È vero. Per cui poi quello che è il netto in busta paga è un altro ragionamento. ODM Consulting, però, per correttezza, fa, e per precisione, fa l'analisi della retribuzione lorda. Ecco perché poi quello che resta, pensiamo solo alle addizionali regionali o locali, come cambiano poi quello che resta come netto in busta paga. Detto questo, andiamo adesso alla borsa e poi alla settimana che è iniziata, ma soprattutto alla settimana che è stata quella scorsa. La borsa più 0,96%, quasi 1%, Parigi più 1, Francoforte più 2,24, Londra più 0,90%. Gli Stati Uniti, diciamo, più 0,91. Francoforte ha strappato, nel senso che ha superato, anche come ricordavamo in apertura del programma, il tetto dei 12.000 punti, che non toccava da mai, quindi la prima volta nella sua storia, arrivata fino a 12.200 punti. Come sempre, il commento di borsa lo facciamo con Radio Core Il Sole 24 Ore, oggi nella persona di Paolo Paronetto. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Allora, mercoledì, se non ricordo male, ci sarà il vertice della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Esattamente. E da questo punto di vista le borse sono in attesa per capire non se verranno rialzati i tassi, ma se arriveranno altre indicazioni sul tempismo con cui verranno rialzati i tassi. Prego Paolo. Sì, esattamente, diciamo che la scommessa del mercato è che possa la stretta della Fed possa iniziare verso giugno per l'esito del meeting, che tecnicamente comincia domani, ma l'annuncio sarà di mercoledì, appunto, e diciamo che l'attenzione principale è su una technicality, cioè sul gli esperti aspettano di vedere se nella dichiarazione conclusiva la Fed continuerà a dire che avrà pazienza nell'aumento dei tassi di interesse, una definizione che c'è sempre stata negli ultimi mesi. Molti si aspettano che verrà tolta questo mese, dando così appunto un nuovo adito alla scommessa di un'imminente stretta nella politica monetaria. Allora, i titoli nel frattempo, iniziamo da chi più è cresciuto: ST Microelectronics più 4,70, Exor più 4,60, Ferragamo più 4,30, Moncler più 4,20, fronte opposto Saipem meno 4,15, Yux meno 2,44, Eni meno 2,20, Pirelli meno 1,30, Monte dei Paschi meno 1%. Allora, ST Microelectronics ed Exor, ma anche Ferragamo più 4,30. Sì, per quanto riguarda ST Microelectronics si tratta soprattutto di un rimbalzo. Giovedì il titolo aveva perso molto dopo il taglio delle stime sul fatturato di Intel per il primo trimestre 2015, venerdì ha avviato un recupero che è continuato anche nella giornata di oggi grazie anche a un generale recupero di tutto il settore. Per quanto riguarda Ferragamo si tratta di una reazione positiva ai dati di bilancio diffusi nella serata di giovedì, e anche qui inoltre c'è un movimento di tutto il settore del lusso che approfitta anche del rafforzamento del dollaro, che ormai è storia di molte settimane. L'euro oggi ha recuperato un po', ma rimane comunque su livelli molto bassi. Per quanto riguarda Exor, qui diciamo che il titolo approfitta in generale del rialzo di tutta la galassia Fiat Chrysler. Oggi il titolo Fiat Chrysler ha chiuso più 1,28, appena sotto i 16 euro, 15,8 euro, ma nel durante aveva superato la soglia dei 16 euro. Qui si continua, il titolo continua a beneficiare delle parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, in particolare sulla valutazione di Ferrari in vista della quotazione. Marchionne ha detto che vale molto più di 7 miliardi che erano le stime circolate nelle ultime settimane, e inoltre ha parlato di General Motors e Ford come possibili partner internazionali per il lingotto. Ancora tra i titoli, vediamo andare bene: Intesa San Paolo più 3%, Atlantia più 3,1%. Atlantia, cosa vuol dire l'effetto giubileo? Nel senso che sappiamo cosa ha annunciato Papa Francesco la settimana scorsa, ma Atlantia? Beh, diciamo che qui gli analisti hanno iniziato a tirare fuori i dati del 2000, quando c'era stato il 2000, e in particolare cosa aveva significato come incremento di traffico autostradale e aereo. Atlantia gestisce ovviamente attraverso aeroporti di Roma anche lo scalo di Fiumicino, e appunto gli analisti ricordano che allora nel 2000 il traffico all'aeroporto crebbe del 9,4% annuo e che il traffico autostradale aumentò del 3,5%. Anno. Ora si ipotizza, diciamo, un impatto del 5% quest'anno nel 2016 sul traffico degli scali della capitale e un flusso di 1,5 milioni di visitatori italiani, che naturalmente aumenterebbero anche il traffico autostradale. Quindi diciamo che dopo l'annuncio del Papa si inizia a fare i calcoli sugli effetti economici sul traffico dei visitatori verso Roma, e Atlantia ne beneficerebbe. Ancora per quello che riguarda Moncler più 4,20, Autogrill più 4%, e tra le banche, oltre Intesa e Popolare di Milano più 3%, cito anche Ubibanca più 1,5%, Unicredit più 1,5%, Telecom Italia più 2,33%, Autogrill è salito del 3,96%, il mercato torna a scommettere su possibili operazioni straordinarie, quindi fusioni per la società, e dopo che l'amministratore delegato Tondato è tornato a rilanciare gli scenari di un consolidamento del settore, sottolineando che nel caso questo si verificasse la società valuterà le possibili operazioni che possono creare valore per tutti gli stakeholder del gruppo. Gli analisti comunque sì, consigliano prudenza, ma il mercato scommette su questo. Negativa ancora Eni, ma il dato è della settimana scorsa, meno 2,20%, e Saipem meno 4,15%, Yux meno 2,44%, migliori e peggiori in assoluto, Fidia più 36%, Seat Pagine Gialle più 19%, Poligrafica più 16,70%, Mutui Online più 9,80%, Fiera Milano meno 5,50% invece, Eurotech meno 4,60%, e poi Valori Italia Holding meno 8,33%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore. una finestra di opportunità macroeconomica molto ampia, più ampia di quanto si potesse pensare qualche settimana fa. Quello che non bisogna fare guardando fuori dalla finestra sono due cose: uno, peccare da eccesso di ottimismo, e due, pensare che questo giustifichi un indebolimento degli incentivi a fare le riforme. C'è un ottimismo nuovo che non c'era fino a poche settimane fa. Sostanzialmente è temporale, è cronologico, è successo che il quantitative easing improvvisamente è scoppiato l'ottimismo. In realtà credo che ci sia qualcosa di più profondo, proviamo a vedere anche cos'è. Ci vuole attenzione nel un eccesso di ottimismo, ci vuole consapevolezza e capacità di distinguere tra diverse situazioni, c'è fragilità ancora. Avete ascoltato nell'ordine e con sottofondo i Carmine Burana, qualcuno forse ha già capito, prima il ministro dell'economia Padoan, Piercarlo Padoan da Cernobbio, sabato nel corso del workshop Ambrosetti, attenzione non pecchiamo troppo di ottimismo, e poi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha detto sì, c'è dell'ottimismo in giro, e appunto vediamo che questo non venga sciupato, non è solo il quantitative easing di Mario Draghi. Noi non pecchiamo mai di ottimismo, almeno spero, ed è comunque il motivo per cui abbiamo invitato il professor Giulio Sapelli, introducendolo come sempre con i Carmine Burana. Buonasera Sapelli. Buonasera Terrestre, eccomi qui. Allora, professor Sapelli, lei non certo non pecca di ottimismo, per cui però se l'aspettava una reazione così forte dei mercati a Mario Draghi? Sì, me l'aspettavo, e i mercati l'hanno anche anticipata, perché quello che lei chiama mercati non riflettono lo stato dell'economia reale, ma riflettono le aspettative degli operatori. Dalle aspettative degli operatori e l'andamento ciclico dell'economia spesso non c'è nessun rapporto, anzi spesso noi abbiamo i mercati che salgono quando la disoccupazione aumenta e i profitti delle imprese crollano. Si ricorda quando Tiscali o Amazon sì, come no, realizzavano più di General Electric e di Fiat? Quindi però adesso, per essere non ottimisti ma almeno realisti, obiettivamente io sono d'accordo con chi dice attenzione, c'è una situazione in cui petrolio sotto i $50, quindi non ti fa danni un euro a 1,05 euro sul dollaro, tassi ai minimi, rendimenti dei titoli di Stato ai minimi, la BCE che si è messa a comprare i titoli di Stato, e questa ne è una delle sono alcune delle conseguenze. Lei è d'accordo con chi dice se non ce la facciamo adesso a ripartire non ce la facciamo più? No, perché vede, io ho sentito prima quei due illusionisti, che anche illusionisti illustri, che l'hanno intervistata, il ministro e il nostro governatore della Banca d'Italia, che parlano come degli illusionisti. Il problema che fa la crescere o non la crescere sono due cose: la domanda effettiva. La domanda effettiva è fatta di consumi dei mercati interni e anche di quelli esteri e di investimenti. Queste due cose non ci sono, anzi le dirò di più. Il calo del prezzo del petrolio ha scassato, fatto fermare diversi trilioni di dollari di investimenti. Sì, abbiamo visto su British Petroleum, Eni, anche... Poi investimenti nell'Artico, investimenti nello Shell Gas. Sì, però noi viviamo in Italia, lei sa che con un euro a 1,05, se il petrolio fosse rimasto a $100 al barile, avremmo importato inflazione senza consumi, per cui il peggio... Però vedo, caro Barisone, che gli illusionisti già contagiano. No, mi contagiano quello che studiavo all'università, se non ricordo male. Vuol dire avere l'inflazione importata con un paese che non consuma vuol dire che i prezzi salgono, ma non perché guadagni di più, diciamo. Aspetta però, perché gli ultimissimi dati siete da dei professori intelligenti, molto capaci, penso per esempio al professor Campiglio, Cattolica, hanno dimostrato che noi cominciamo a avere dei cali e delle scricchiolie anche nelle esportazioni. Allora, il mercato interno si sta restringendo, non si sta aumentando. Ha visto i dati sulla Germania. E noi sappiamo bene che se la Germania ha l'influenza, l'Europa ha la broncopolmonite. La Germania si sta lentamente fermando grazie alle famose riforme Schröder, che l'illusionista della Banca d'Italia evoca. Bisogna fare le riforme. Se le riforme e fare come lo ha fatto in Germania Schröder, che ha un terzo del mercato del lavoro con la gente che guadagna dai 400 ai 600 euro, ha tolto alla locomotiva tedesca uno dei suoi, perché la locomotiva tedesca, come lei sa, è fatto di due stantuffe: l'esportazione, quindi surplus commerciale, e un grande mercato interno fatto soprattutto dai suoi operai che guadagnano dai 2.000 ai 2.500 euro, e le classi medie. Il signor Schröder sta massacrando questa cosa qui. Aveva massacrato, e la signora Merkel pensa adesso che siano le riforme. Quindi io non sono né ottimista né pessimista, io sono realista e sono fedele a quello che mi insegnavano economisti come Luigi Pasinetti, Caffè, Ciro Zabini, Galbraith, e non questi illusionisti di oggi, che non hanno mai scritto un libro ma scrivono solo dei papers di 10 o 13 pagine incomprensibili, perché sono tutte formule matematiche. Quindi credo che la situazione sarà molto dura, soprattutto in un paese di imprese medio-piccole che esportano solo per il 25-30%. Se le altre nostre imprese che non esportano, dove vanno? Ecco, però mi dica una cosa. Allora, mentre noi ci occupiamo molto anche del teatro della tragedia greca, oggi la Grecia ha pagato una tranche al Fondo Monetario Internazionale, però noi sappiamo che cosa manca: manca un piano di investimenti europei, forse questo. Certo, ne abbiamo discusso molte volte, lei ha il merito nella sua meritoria trasmissione di averlo sollevato. Noi abbiamo bisogno di un piano Marshall europeo. Il piano Juncker andava nella giusta direzione, un tentativo ancora limitato, non mi pare che l'abbiano emasculato, no? Perché l'abbiano castrato, adesso per dirlo in termini termini veterinari, insomma. Ma no? lei vede, sapete, siccome lei è uno spirito libero, anche se non condivido delle volte quello che dice, ma lei vede più rischi in questo momento di un eccesso di euforia per quello che abbiamo fatto sentire le due dichiarazioni di Visco e di Padoan, cioè questo ottimismo? Perché dico eccesso di euforia o rischio? Perché se poi non arrivano gli investimenti, la doccia fredda è ancora più forte quando ti sei illuso. Certo, sono d'accordo, ma non solo, dico di più: se tu hai un eccesso di M3, cioè di circolazione monetaria, di liquidità, diciamo, di liquidità così forte, in mancanza di investimenti e di aumento del mercato interno, c'è il rischio di una nuova bolla speculativa. E allora andiamo veramente tutti, come diceva mia nonna, al pian di Babi, cioè andiamo proprio tutti. Ho capito, però Mario Draghi non può più fare altro adesso, nel senso che lui ha non è il demiurgo. Mario Draghi fa il suo anzitutto Mario Draghi ha fatto pessimamente il suo mestiere. Vabbè, io su questo non sono d'accordo, però Lo so, vabbè, ma doveva mantenere la stabilità monetaria, invece siamo scesi dal 2% al meno 1, quindi non è neanche riuscito a far questo. Neanche riuscito a far questo, quindi vabbè, ma però insomma lasciamo perdere. Però tutta questa illusione che la situazione si risolve con la banca centrale è un errore, perché non si risolve né qui né negli Stati Uniti né in Giappone. Ci va l'investimento, non lo fanno i privati gli investimenti, deve cominciare a fare lo Stato. Bisogna avere il coraggio di dire questa cosa qui: ciò che non fa la mano privata faccia la mano pubblica. Noi che siamo di saltimbanchi cominciamo già a farlo con la Cassa Depositi e Prestiti, in questo modo però poco chiaro e pericoloso. E quindi bisogna un po' cambiare registro, amico mio. Senta, però se ammesso e non concesso che insomma si ottenga, perché secondo lei Renzi non punta di più su questo a livello europeo, visto che lei è sempre molto schietto in questo? Cioè dicendo adesso Renzi innanzitutto ha sei consiglieri che pensano sei cose diverse. Perché Renzi subisce delle influenze esterne, e Renzi è chiaro, esatto, è la metafora dell'Italia che è un paese a sovranità limitata. Renzi fa molto bene in politica estera, molto bene, io gli do 10 e lode. Per Mediterraneo, mentre tutta l'Europa guarda l'Ucraina secondo il motto tedesco. Però invece sulla politica economica il giovane Renzi ha sei consiglieri che pensano sei cose diverse. E quindi fa delle cose a zigzag, fa una politica zigzag che ha delle conseguenze che, se non si ferma un po' a riflettere, possono avere conseguenze disastrose, perché crea aspettative, crea cose e poi dopo non le raggiunge. Quindi secondo me avrei fatto un po' più lentamente le cose e avrei ascoltato uno o due consiglieri, non sette tutto in una volta, è un casino che non si finisce più. Un'ultima cosa, ma il 2015, al di là del ragionamento che lei ha fatto dei pericoli, in parte lo condivido, in parte no, ma sarà un po' l'anno della svolta o no? Beh, dunque, l'anno della svolta è già stato per il ciclo tecnocratico, finanziario, oligarchico, lo sconfitto della Grecia. La Grecia è una grande vittoria. I greci hanno avuto la schiena dritta di dire: cari ragazzi, noi siamo stati votati, non abbiamo bisogno del pilota automatico. Quindi i greci richiamano a gran voce la riforma del Trattato di Maastricht, andare verso un'Europa confederale, non federale. Ogni Stato si faccia i suoi debiti che vuole e ci teniamo la moneta unica. Se non facciamo questo, tra un po' l'Europa implode, perché l'euro implode. I greci, certamente, è cambiato il ciclo grazie alla schiena dritta dei greci. Più i greci, ho capito benissimo la sua analisi, più i greci che Draghi. Con questo io saluto, rilascio decollare Giulio Sapelli, che ci viene a trovare regolarmente, tornerà a trovarci, nel frattempo insegna anche storia economica alla Statale di Milano. Auguro a tutti una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Costruisci il futuro della tua impresa. INAIL finanzia le imprese che migliorano le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con un contributo del 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 130.000 euro. Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 puoi inserire il tuo progetto e partecipare alla fase successiva. Informati su INAIL.it. INAIL sostiene le imprese che investono nella sicurezza dei lavoratori. Ho una notizia bomba! Spara! Sono tutto orecchie! Passepartout Retail, il software per la gestione di singoli negozi o catene, anche in franchising, si integra perfettamente a Passepartout Maxal. Interessante! Un prodotto specifico per la vendita al dettaglio e un gestionale completo per adempimenti contabili e fiscali. Che coppia! Shhh! Acqua in bocca! Passepartout Retail e Passepartout Maxal. Attenti a quei due! 841 42 43 o passepartout.net. Con Renault la bella stagione arriva prima. Con Beautiful Days per te, Renault Clio con 5 porte e clima a 9.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento Finrenault. Info in concessionaria. Disponibile anche GPL con 500 euro in più. A marzo sempre aperti. Professionisti, artigiani, imprenditori, non serve un software specifico per emettere la fattura alla PA. Con Fattura PA Facile di Open.com potete inserire i dati della fattura direttamente dal vostro computer. Open si occuperà di tutto il resto: firmare, spedire, gestire le notifiche e conservare a norma fatture e notifiche. Per fruire del servizio Fattura PA Facile di Open.com non ci sono né costi di attivazione né canone annuale. Paghi solo ciò che usi e i prezzi sono molto interessanti. Open.com, conta su di noi. Cari radioascoltatori, regalate ai vostri cari una Pasqua piena di gioia e dolcezza. Ma basta! Scusi? Da oggi c'è una nuova Pasqua! Ve lo dico io! Il coniglio pasquale! È arrivata la caccia alle uova Kinder! Acquistate l'uovo Kinder Gran Sorpresa e le altre dolcezze Kinder! Nascondeteli e poi via! Bimbi, tutti a cercare! I nascondigli ve li suggerisco io su caccialeuovakinder.it. Corro al supermercato anch'io, giovanotto! Sa, ho due nipotini! Brava! E comunque sono un coniglio, non un giovanotto! Per il futuro della tua azienda, guarda lontano. ICE ti avvicina. Un giovane export manager formato dall'ICE può entrare in prova nella tua impresa senza alcun onere per 4 mesi. Scegli fra tanti giovani laureati, motivati dal profilo qualificato, con ottima conoscenza di almeno 2 lingue oltre all'inglese. Sono pronti ad aiutarti a realizzare il tuo progetto all'estero. Prenotati subito per un colloquio. Scopri di più su radio24.it. Diventa un ready business. Scopri le soluzioni e le tecnologie Vodafone per rendere la tua attività più flessibile, più dinamica e più competitiva. Vai su readybusiness.vodafone.it. 024 2024 Bit. L'innovazione digitale. Una buona serata e bentornati da Enrico Pagliarini. Questa sera parliamo di cloud computing, Uno dei fenomeni ai quali stiamo assistendo negli ultimi mesi è l'apertura di numerosi data center in Europa o di progetti annunciati per i prossimi mesi. I motivi sono vari. Primo, l'aumento del business legato allo storage o al software come servizio. Per IDC, ad esempio, il settore del cloud crescerà di oltre il 20% entro il 2018. Quindi, maggiori sono i clienti, maggiore è il numero di centri elettronici necessari per soddisfare le loro esigenze. Secondo, la crescente richiesta di Bruxelles di conservare fisicamente alcuni dati sensibili sul suolo europeo. Terzo, la vicinanza alle aziende per ridurre al minimo i tempi di risposta. In un mondo dove sono sempre più i dati che transitano su internet, la pressione sulla rete può influire sui tempi di risposta quando clicchiamo su un sito internet, ad esempio, o mentre trasferiamo file o usiamo applicazioni tra l'azienda e il data center o viceversa. Insomma, anche la distanza geografica diventa sempre più importante. Ci risentiamo domani sera. 0, 2, 4. 2024 bit. Dal 31 marzo la pubblica amministrazione accetterà solo fatture elettroniche e metterti in regola sai quanto ti costa. Nulla con Aruba. Cogli al volo l'occasione, è un servizio semplice, completo e con Aruba è gratis per un anno. Attivalo subito solo su www.pec.it. Preghiamo i signori passeggeri di recarsi al gate 2 per l'imbarco. Vi ricordiamo che l'assicurazione dell'auto è in scadenza. Ultima chiamata per il signor Rossi. Ricordiamo di rinnovare il bollo e la manutenzione annuale. Se i pensieri legati all'automobile ti seguono dappertutto, pensa all'Isplan, il noleggio a lungo termine che ti fa scegliere l'auto che desideri con tutti i servizi inclusi. Così hai tutto il piacere dell'auto senza pensieri. Un esempio? Fino al 30 aprile, nuova Ford Focus da 225 euro al mese per 36 mesi e 30.000 km totali. Isplan, oggi si guida così. Info su isplan.it. Conosci il fornitore leader di soluzioni per la gestione del capitale umano? Conosci chi da oltre 60 anni innova il mondo delle risorse umane? Allora conosci ADP, partner ufficiale delle direzioni HR che innovano. adp-italia.com. Salve, vorrei un piatto di... Signorina, lei strizza un po' gli occhi. Le consiglio il branzino in crosta. Perfetto. Ma non da mangiare, lo metta sugli occhi, così, voilà. È sicuro? Certo, oggi poi è freschissimo. Per la tua vista, non ascoltare chiunque. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò per il check-up visivo. Ottici specializzati effettueranno un test della vista professionale e gratuito. Prenotalo all'888-2233 o online sul sito salmoiraghieviganò.it. È con grande emozione che partecipo a questo importante Quando il bruciore di stomaco da reflusso è uno stop ai tuoi momenti più belli, puoi provare nuovo Nexium Control. Una compressa al giorno di Nexium Control regola la produzione di acido fino a 20.